ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Stando in giro per il mondo, le cose succedono più facilmente, le lasci scorrere sopra di te. Dopo poco vedo una camera d'aria abbandonata da qualche ciclista, col coltello la taglio in due e me la uso come cintura, era fantastica. Ed è così che meno di 2 settimane dopo, l'impiego in banca era diventato il mio passato e incominciavo la mia nuova vita. Storie di molte vite e di molte identità in una puntata che si intitola Quante vite in una. È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo. E ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Ma lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca. E questa è la splendida e inquietante scena finale di Psycho, era il 1960, era Alfred Hitchcock, se non lo conoscete questa parte finale, per capire per quale motivo l'abbiamo usato per aprire questa puntata, è la voce femminile che esce dalle casse, dall'audio di questo film, è la voce di una donna, ma in realtà proviene dalla testa di un uomo, l'inquadratura è proprio quella di quest'uomo che tiene una coperta sulle spalle, è lo splendido Anthony Perkins nella scena finale appunto di Psycho. Vi dicevo, l'abbiamo scelta perché la puntata di oggi si intitola Quante vite in una e vi raccontiamo due storie che sono bellissime anche se molto diverse tra di loro, come sempre cerchiamo di fare, dove davvero la linea d'ombra tra essere un'unica identità e cercare di sviluppare le tante identità e le tante potenzialità che ci sono dentro di noi è molto molto sottile. E il primo protagonista, il primo autore della storia che si chiama Andrea, ce la racconta benissimo perché ha vissuto tantissime vite negli anni 90, fine anni 90 ha mollato il lavoro in banca, aveva 32 anni, sembra quasi stereotipata come immagine, eppure è così, lavorava in banca ed è partito, la prima tappa è stata Disneyland Parigi e poi si è girato tutto il mondo, ha munto mucche in Nuova Zelanda, ha lavorato in India come trasportatore e poi è stato in Inghilterra, poi è stato in Scandinavia, è andato in Africa in una missione, insomma una storia davvero racambolesca, le sue mille vite che ha vissuto. E poi andiamo invece nella testa di una persona che ha vissuto un'unica vita ma con 24 personalità diverse. Insomma, mettetevi comodi, la puntata si intitola Quante vite in una. Benvenuti a Linee d'ombra. Era il gennaio del 1999 e mi avevano appena operato agli occhi per ridurre la miopia. Da una settimana la mia vita era nell'oscurità. In quell'epoca ero responsabile dell'ufficio estero di una banca locale e non ero felice della mia vita. Sognavo di conoscere il mondo e di scoprire che cosa c'era al di là delle montagne. Avevo 32 anni e vivevo nella Valle Verde, la Valle d'Aosta. Quel giorno, ascoltando la radio, sentii che Disneyland Parigi reclutava lavoratori stagionali e la scadenza per le domande era quel giorno stesso. Mancavano solo 2 ore al limite. Ci pensai un po'. Condivisi i miei pensieri con la mia compagna dell'epoca e mezz'ora dopo stavo già guidando la mia Fiat Regata Station Wagon per andare ad iscrivermi. Poche settimane dopo ero a Milano per prendere parte alla selezione. Nella mia voglia di cambiare sognavo di fare il giardiniere o il parcheggiatore, ma seguendo l'istinto e soprattutto una bionda, finii per provare la selezione al dipartimento dello spettacolo. Io, che mi muovo peggio di un orso ballerino. Il coreografo selezionatore ci mise subito alla prova con un balletto e certamente fu colpito dalla mia totale mancanza di ritmo, ma anche dall'impegno e dalla voglia di fare che avevo. Ed è così che meno di 2 settimane dopo la banca era diventato il mio passato ed incominciavo la mia nuova vita a Magny-les-Ingres, un villaggio al lato di Disneyland Parigi, che ospita parte dei dipendenti del parco, tutti molto giovani, e con una compagna che presto diventerà una ex compagna ad aspettarmi a casa. L'idea era fare l'esperienza lì per 6 mesi, poi tornare sulla retta via e riprendere una vita lineare, aprire insieme a lei un agriturismo in montagna. Peccato che 8 mesi dopo mi trovavo vicino alla città di Tauranga, in Nuova Zelanda, a mungere le mucche in una fattoria. E l'anno successivo, dopo qualche mese passato nel sud-est asiatico, vivevo nel quartiere di Queensbury a Londra, cucinavo panini in una catena di fast food inglese con una capa rumena che mi odiava per via del mio stato zen e mi faceva togliere le cicche dal pavimento in mezzo ai piedi dei clienti. Ma l'immensità del mondo mi chiamava e l'anno dopo vivevo a casa di Sinakka, una ragazza finlandese conosciuta in Asia. Poi tornai a Londra a pulire i cessi in un ostello per pagarmi la camera, ma pensando che forse stavo un po' perdendo il mio tempo, decisi di andare a Castiglioncello Bandini, in Maremma, a fare il pecoraio. Era il sopire una mancanza di conoscenza per me. Quando ero qua io vedevo sempre un po' le montagne, che io sono sempre andato in montagna, quindi mi piacevano, però le vedevo un po', mi immaginavo quello che ci potesse essere al di là delle montagne. E quindi una volta iniziato, allontanandomi dalla vecchia vita, andando a Parigi, poi da lì è stato un concatenarsi di eventi. Era sempre un conoscere qualcuno che ti parlava di qualche cosa che magari era interessante, che mi dava l'idea di un nuovo progetto. Quell'estate, ricordando Kerouac e il più New Age Coelho, camminai da casa mia fino a Santiago de Compostela. Era il 2001. L'11 settembre, ricordo, le vissi entrando nella città di León. 5 giorni dopo, nella ridente cittadina di Cacabello, conobbi la ragazza che 10 anni dopo avrei reincontrato e che sarebbe diventata mia moglie. Ma la mia schizofrenia mi fece fare e scoprire molte altre cose e divenire meno ignorante ancora per alcuni anni. L'anno dopo ero a Nou Mau, in Costa d'Avorio, in una missione nella foresta ai confini con la Nigeria, assieme a delle suore malgasce. Per fare 2 soldi al ritorno lavorai in un brico center, ma in estate avevo già elaborato un'altra idea: raggiungere Parigi con la mia vecchia mountain bike, dormendo nei boschi. E così, senza allenamento, senza nessun gadget tecnico, senza telefono, senza macchina, arrivai alla Ville Lumière pedalando. Poi proseguii fino ad Amsterdam e poi giù, di ritorno, attraverso la Germania e la Svizzera. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Nel 2004 giunse il momento dell'India. Andai a Calcutta per la prima volta a fare un peu de service, come mi disse un ragazzo francese, a Prendam, uno degli ospedali di Madre Teresa. Quell'anno arrivai a Bombay in aereo, ma poi decisi di tornare a casa dopo qualche mese via terra, attraversando il Pakistan e l'Iran. E quella fu una grande esperienza per conoscere la bontà della gente e il loro senso di accoglienza allo straniero. Per un periodo vissi in Toscana con una fidanzata e lì feci il maggiordomo da una milionaria, feci il panettiere, Babbo Natale, diventai artigiano della carta riciclata. Per 3 anni vissi con questa donna, ma la voglia di mondo e di India era troppa, e così ripartì. Seguì la Rainbow Family nelle montagne della Bosnia, raccolsi l'uva a Chambéry, feci il venditore in uno degli ultimi negozi Olivetti, feci il meccanico di biciclette, lavorai in una farmacia, e a Pune, in India, fui una comparsa nel film The Rising, recitando nei panni di un soldato inglese dell'Ottocento. Era l'istinto, sì, un po' l'ispirazione, sempre facendo anche le dovute valutazioni. Tutto questo è sempre stato fatto non andando a chiedere soldi a nessuno, ma cercando di gestire le mie finanze in funzione di quello che volevo fare. Bastano davvero pochi soldi. All'epoca forse era anche più facile muoversi e andare a Londra a trovare un lavoro, era normale. Per trovare quel lavoro lì, quel lavoretto in un fast food, ci ho impiegato un'ora forse. I soldi necessari a fare una vita a giro, come diceva Terzani, non sono molti. Ma a un certo punto, per una serie di circostanze, ero ad Aosta e per varie casualità cominciai un lavoro come assistente alle persone anziane. Un lavoro molto appagante, per come l'ho fatto io. Questo mi diede una certa stabilità emotiva, o perlomeno un centro di gravità, nella mia vecchia città, dove ero nato. Ma dopo un paio di anni ebbi la fortuna di reincontrare la donna conosciuta sul cammino di Santiago e che presto sarebbe diventata mia moglie. Così mollai di nuovo quello che avevo per andare a vivere a Barcellona insieme a lei. Dopo qualche tempo assieme decidemmo di tornare a vivere ad Aosta. Ora anche lei ricominciava una nuova vita mollando un ottimo posto dirigenziale. Un anno più tardi partimmo per un viaggio in India di 9 mesi. Al nostro ritorno, il nostro successivo e naturale cambiamento fu la mia prima figlia, Joelle, e dopo 2 anni arrivò Jordi. Oggi sono un operatore sociosanitario qualificato e dopo anni di lavoro in case di riposo con persone anziane, l'ultimo cambiamento è stato iniziare a lavorare nel pronto soccorso dell'ospedale della mia città, giusto all'inizio del Covid-19. E a 53 anni, chissà se questo sarà stato l'ultimo inizio. Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street. La puntata di oggi si intitola Quante vite in una e credo non ci fosse storia più giusta di quella di Andrea. Per raccontare una storia, per raccontare un titolo, per raccontare un tema come questo. Davvero, quando mi capitano, e me ne sono capitate alcune, devo dire non così intense, ma alcune me ne sono capitate davanti agli occhi di storie come quella di Andrea, mi dico, beh, allora è possibile, allora è fattibile, e Andrea ne è la dimostrazione. Pronto, ciao Andrea, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Come stai? Bene, bene. Dove ti trovi in questo momento? La prima domanda che mi viene da farti. Facilmente seduto sul divano di casa mia. Ok, quindi ad Aosta. È vicino ad Aosta, in una frazione di un paesino in media montagna, 1000 metri di altezza. Ok. Tu in tutti i posti in cui sei stato ti sei trovato a casa? Ti sentivi a casa? È difficile come risposta. Non era proprio casa, era sempre un po' un'impermanenza in realtà. Ero a casa perché era la gente che mi faceva sentire a casa, magari. Quindi ha sempre a che fare con gli esseri umani che sono intorno, quasi sempre. Sì, il contatto, le esperienze, ciò che ho ricevuto dalle persone che ho incontrato nel mondo. Un tempo, dicevo spesso, il mondo è pieno, per me, queste qua sono sempre semplicemente mie parole, il mondo è pieno di persone buone. E c'è un po' chi cattivi che modificano i fatti. Però davvero, con la mia esperienza ho incontrato una marea di persone buone, semplicemente che mi hanno accolto. Il viaggio, ad esempio, tra i tanti, perché davvero non basterebbero i 5 minuti di chiacchiera che facciamo al telefono qui a Linea d'Ombra per raccontare tutti i posti in cui sei stato, ma il viaggio, ad esempio, che fai di ritorno, dici all'andata a Bombay, in una delle volte in cui ci arrivo in aereo, e poi quell'anno decido di tornare via terra, attraverso l'Afghanistan e l'Iran. Non l'Afghanistan, il Pakistan. Il Pakistan e l'Iran. Sì, l'Afghanistan. E dici, ho capito quanto appunto le persone siano buone e accoglienti. Secondo te quello è un viaggio che si potrebbe fare anche oggi, al netto chiaramente della pandemia, eh? Parlo di quello che succede in giro per il mondo. No, io penso di già allora. Io sono stato fortunato in quel periodo perché era evidentemente un periodo particolare, era il 2004 ed era ancora sicuro, era soprattutto la zona tra l'ovest del Pakistan, che è sempre stata una zona abbastanza tribale e insicura, soprattutto perché poco controllata dal governo centrale. In quel periodo era abbastanza tranquillo, l'ho fatto anche con poca conoscenza, in realtà io sapevo ben poco, un po' con incoscienza. In realtà proprio la gente che ho incontrato a Quetta, o Quetta, non so bene la pronuncia, è splendida, splendida. Di tutte le foto che ci hai mandato, alcune le postiamo sul nostro profilo Facebook, non tutte perché non riusciamo, anche solo scorrendole, tu sei, in una sei davanti a un'ambulanza, in un'altra stai mungendo una vacca, e poi sei con in mezzo a delle pecore, e poi sei vestito da militare, immagino che sia il film che hai girato come comparsa, ah, poi sì. Ti stai sposando, poi sei su una monoruota e poi sei vestito da pirata. La cosa che mi viene in mente da chiederti, guardando e ascoltando tutti i cambiamenti che tu hai fatto nella tua vita, ci si abitua facilmente alle cose nuove e ci si disabitua facilmente alle cose che si è fatto conducendo una vita come la tua, oppure ci si affeziona a qualcosa e ti spiace lasciare quell'abitudine, lasciare quel paese, lasciare quelle persone? Anche questo, tutti e due assieme forse, ci si abitua, ci si affeziona, però soprattutto questo è comunque stato un periodo della mia vita, attualmente è anche diverso. In quel periodo lì era una continua ricerca, era l'affezionarsi a qualcosa, a qualcuno, a un posto, ma nello stesso momento la voglia di scoprire qualcosa di diverso, ricerca continua. E io mi dicevo, diventare un po' meno ignorante. Sì, questo lo dici, certo, lo dici. Sono diventato meno ignorante, cioè ho imparato, la gente mi ha insegnato. L'aver visto, questo l'ho visto in Africa, allora, poi l'ho visto in Africa, però un fatto che mi ha fatto pensare e poi ritenere il cibo e osservarlo in maniera differente, erano delle persone al di fuori di un magazzino di riso, dove c'erano questi enormi sacchi di riso, questo era in Costa d'Avorio, e le persone fuori, dove venivano ammucchiati evidentemente in precedenti sacchi, e sacchi di juta probabilmente bucati, e la gente raccoglieva dei singoli chicchi uno a uno, e piano piano questi chicchi diventavano un pugnetto di riso. Certo. E questo mi ha fatto pensare lo spreco che anch'io ho sempre fatto, purtroppo, cercando di farlo poco, però alla fine si spreco di cibo. Questo mi ha insegnato, per me vedere non finire un piatto di riso per anni e anni mi faceva male, pensando a quello che avevo certo, visto. Certo. Senti Andrea, purtroppo devo andare verso la chiusura della nostra chiacchiera. Adesso tu sei un operatore sanitario e fai assistenza agli anziani. È stato un periodo terribile la primavera scorsa e pare che stia ricominciando, purtroppo. Come la stai vivendo questa cosa? Com'è la situazione nel posto in cui lavori? Allora, io nel periodo del Covid, inizio Covid, nei mille cambiamenti ho fatto un altro cambiamento, per 6 mesi ho lavorato nel pronto soccorso di Aosta. Ah, wow. Sempre come operatore sanitario, proprio mi sono fatto tutti i primi 6 mesi e lì ho visto cose terribili, ecco. Per cambio, per gestione familiare, avendo adesso una vita più stabile con 2 bimbi piccoli eccetera, ho deciso di tornare indietro a lavorare in una residenza per anziani, e la situazione è lì, certo. In via di Senti, monitoraggio. Andrea, adesso tu hai 2 figli di 8 e 6 anni, che progetti avete per il futuro? Sogni di più che progetti, per ora il progetto è una stabilità qua, sogni di insegnare, un sogno è di insegnare ai bimbi cosa c'è al di là delle montagne e com'è il mondo che può essere anche al di fuori della nostra piccola regione. L'idea bella sarebbe appunto offrirgli, che so, stare via qualche tempo, un anno, in qualche paese asiatico. Certo, però bisogna trovare il modo per farlo. Ti ringrazio davvero tanto essere realistici per la chiacchierata e per la storia che ci hai grazie mandato. Ti faccio in bocca al lupo per tutto e a presto. Grazie Matteo. Ciao. Buona ciao, giornata. Ciao, anche a ciao, te. Ciao, ciao. Would you like to know a secret just between you and me? I don't know where I'm going next, don't know where I'm gonna be, no. La puntata di oggi si intitola Quante vite in una, e dopo avervi raccontato la storia di Andrea, che ha vissuto tantissime vite nell'arco di 20 anni, forse di poco più, 20-25 anni, ora ve ne raccontiamo un'altra di storia. Seguitemi molto attentamente. Ragen era un giovane uomo di origine serbo-croata. Controllava un traffico di stupefacenti e di armi. Aveva una forza quasi sovrumana. Poteva sradicare a mani nude un gabinetto dal muro. Allen invece era un giovane 18enne londinese, spocchioso e altezzoso, appassionato di medicina, biologia e cultura araba. E poi c'era Christine. Era una bambina dislessica, era sempre stata vessata dai compagni. Per sfuggire alle continue derisioni, disegnava fiori e farfalle. Una compagnia piuttosto variegata, questa che vi sto raccontando, che in realtà, fisicamente, non è mai esistita. Ragen, Allen e Kristen non sono mai state persone reali, ma tre delle 24 personalità che abitavano il corpo di Billy Milligan, uno dei casi più famosi di disturbo dissociativo dell'identità. In questa puntata che si intitola Quante vite in una, la prossima storia è proprio la sua, quella di Billy Milligan. State con noi. L'infanzia di Billy Milligan è stata particolarmente drammatica. Nasce il 14 febbraio 1955 a Miami, ma subito dopo la sua nascita, la madre Dorothy e il padre, un comico con problemi economici, di alcolismo e gioco d'azzardo, si lasciano. Quando non ha ancora compiuto 4 anni, suo padre si suicida e così la madre e i due fratelli decidono di cambiare città. Dorothy si risposa con un uomo disturbato, Chalmers, che dal 63 inizia ad abusare di Billy, che all'epoca ha solo 8 anni. Per salvarsi da un'infanzia così infelice, Billy sviluppa quasi subito un sistema di difesa psichico che lo porta, nel corso degli anni, a frantumare le sue personalità. Billy comincia a manifestare i primi segnali di questo disturbo sin da bambino. Già all'età di 4 anni è evidente come siano presenti due personalità in Billy. Sono Christine, bambina dislessica di 3 anni che emerge ogni volta che viene sgridato o messo in punizione. E poi c'è Sean, è un bambino sordo di 4 anni che emette uno strano ronzio dalla bocca per avvertire le vibrazioni del cranio. Ma a fare di Billy Milligan un caso unico è il fatto che le sue personalità arrivarono ad essere addirittura 24, ognuna delle quali con... Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite, su aruba.it. Proprie caratteristiche e peculiarità. Mi ha chiesto un appuntamento 2 giorni di fila. Che cosa succede? Non ho mai visto un caso del genere. 23 personalità abitano nel corpo di Kevin. È successo qualcosa? Gli avvenimenti che si susseguono nella vita di Billy contribuiscono mano a mano a creare nuovi tasselli di questo mosaico dentro di lui, a far nascere nuove personalità e nuove ossessioni. Un esempio è Danny, è un ragazzo di 14 anni che ama dipingere nature morte. Danny nasce durante il periodo di abusi del patrigno ed è soggiogato da 2 fobie, quella per gli uomini a causa delle violenze di Chalmers, e quella per il terreno, perché un giorno, tra le mille torture, il patrigno lo costringe a scavarsi una buca con l'intenzione poi di seppellircelo vivo. Crescendo, le identità presenti dentro Billy diventeranno sempre di più. Provengono da città diverse, hanno età diverse, hanno interessi diversi e soprattutto hanno caratteristiche opposte. C'è Christopher, che ha 13 anni, fratello di Christine. Poi c'è Ragen, Vadaskovic, lo slavo di 24 anni, realmente capace di parlare la lingua serbo-croata, incredibilmente. Poi c'è Arthur, di 22 anni, londinese, che invece parla e scrive correttamente l'arabo. Oppure c'è Adalana, che è lesbica, e c'è Philip, che al contrario è omofobo. A rendere ancora più curioso questo caso incredibile, sembra che le personalità di Billy siano consapevoli le une delle altre e che si siano organizzate in modo gerarchico. Solo 2 di loro, quella di Arthur, l'inglese spocchioso, e quella di Ragen, lo slavo violento, avevano il potere di decidere quale personalità potesse emergere e quale invece fosse bandita per sempre. Le personalità venivano eliminate se disobbedivano al codice etico che si fondava su 2 leggi che Arthur e Ragen avevano imposto: non fare del male alle donne e ai bambini. Nonostante le regole che le 2 personalità danno a Billy, lo stesso Billy ha dei problemi con la legge e viene arrestato per la prima volta per aver aggredito, sequestrato e stuprato 2 prostitute. A questa seguono altre denunce per furto di farmaci, rapina a mano armata, aggressioni, ma la goccia che fa traboccare il vaso arriva con il suo arresto il 27 ottobre del 77, a seguito dell'accusa di aver rapito, violentato e rapinato 2 studentesse della Ohio State University. Dopo che David, una delle sue personalità, svela alla psichiatra incaricata di seguirlo durante il processo l'esistenza delle altre 23 identità, il suo caso unico nella storia della psichiatria viene alla luce. Con chi di loro sto parlando adesso? Dottoressa Fletcher, con Barry. Non sembra affatto Barry. Barry è un leader estroverso. Infatti lo sono. Adesso ti dico la mia ipotesi, basandomi sulla descrizione di tutte le 23 identità che vivono nel corpo di Kevin, come ho saputo da Barry. Io credo di parlare con Dennis. Credo di averlo incontrato e lo credo perché hai sistemato due volte il piatto dei cioccolatini da quando sei qui e so che hai un disturbo ossessivo compulsivo. Oh, ecco, ora capisco. Lei è abile, ma io non sono Dennis. E penso anche che tu e Patricia siate stati banditi dalla luce già da un po', prima di tutto per le vostre credenze, diciamolo pure. Patricia e Dennis sono molto instabili, io non sono Dennis. Avete voi due il controllo ora? La prego di credermi, io sono Barry. Le varie personalità di Billy possedevano informazioni distinte le une dalle altre, conoscenze proprie, sembravano provenire da luoghi differenti e avere età diverse. Durante i 10 anni di internamento in ospedale psichiatrico, i medici riescono a fondere le sue personalità e a svilupparne un'altra, onnisciente, che prenderà il nome di The Teacher, il maestro. Il maestro aveva un lasso temporale di ricordi molto più lungo rispetto alle altre personalità, dunque poteva ricostruire lo specchio rotto della storia personale di Billy pezzo dopo pezzo. Ma in una mente così provata dalla patologia come quella di Billy, quella del maestro era una personalità molto instabile e per di più creata non da Billy, ma dai suoi terapeuti, dai medici. Bastava una singola domanda perché il complesso equilibrio crollasse. Tuttavia, col progredire della terapia, il maestro divenne una figura sempre più solida e capace di dominare le altre personalità. Una volta uscito dagli istituti di psichiatria, nel 1991, di Billy si persero le tracce. Le autorità temevano che un'eccessiva pressione mediatica potesse disgregare di nuovo l'equilibrio raggiunto dopo anni di terapia. Solo alla sua morte, nel 2014, si seppe che Billy trascorse il resto della sua esistenza in California come piccolo imprenditore di una casa di produzione cinematografica indipendente, la Stormy Life, vita tempestosa. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather since my man and I ain't together. La storia di Billy Milligan che vi abbiamo appena raccontata è una storia su cui è stato scritto moltissimo ed è anche stato girato un film di 4 anni fa, del 2016, di cui avete sentito dei pezzi durante il racconto, si chiama Split, lo ha girato Michael Shyamalan che è l'autore del famosissimo Il Sesto Senso, poi ne ha fatti diversi altri film che hanno avuto meno successo, questo però è un film piuttosto inquietante, soprattutto è inquietante James McAvoy che è l'attore che interpreta Billy Milligan, che di fatto fa una prova d'attore straordinaria proprio perché fa una cosa molto complicata, cioè con un unico personaggio, con la sua faccia e il suo corpo, interpreta 24 personalità diverse. È una storia davvero incredibile, stranissima e anche un po' inquietante ed è la perfetta per questa puntata che si intitola Quante vite in una. La puntata di oggi della nostra storia seriale è quella che appunto riporta la vita di Antonio Cocco, il giovane uomo che all'età di neanche 18 anni negli anni 50 scappa da Venezia, raggiunge la Francia e qui viene praticamente costretto ad arruolarsi nella legione straniera. Ecco, questa storia oggi ha un piccolo elemento che arricchisce tutto il racconto, perché come forse avrete capito questa storia era stata depositata all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, che è il luogo dove tutti gli italiani, se vogliono, possono consegnare i propri diari oppure quelli dei dei propri cari. E oltre al diario di Antonio, oltre a questo, più che diario, questo epistolario, questa serie di lettere che scriveva al padre, lì c'è anche un altro documento, c'è anche un altro volume che è molto prezioso, ma che su cui c'è una sorta di riserva da parte della famiglia. Oggi però nel suo lavoro di ricerca Mauro Pescio è riuscito a ottenere una cosa straordinaria, cioè ha chiesto a Gianni, il fratello di Antonio, che spesso sentiamo raccontare, sentiamo parlare all'interno di questa storia, di leggere un pezzo di questo volume. Che volume è questo? È l'insieme dei pensieri, delle lettere e delle riflessioni di diario scritte dal padre di Antonio. Quindi per una volta noi riusciamo davvero a sentire l'altra parte di questa storia, cioè di solito siamo sempre in Africa, siamo sempre all'interno della legione con le parole di Antonio, poi certo abbiamo le riflessioni e i racconti anche dei fratelli e dei familiari. In questo caso però Gianni ci leggerà espressamente un pezzo di diario del padre che racconta quello di cui stiamo per parlare, e cioè il tentativo di riportare a casa Antonio in maniera clandestina, quindi facendolo letteralmente scappare, quasi rapendolo. C'è l'idea di andare in Algeria con una nave e riuscire a farlo scappare sotto mentite spoglie, una sorta di davvero di film d'azione a metà tra James Bond e un film di guerra, di spie. Ecco, oggi stiamo molto attenti perché sentiamo le parole di Antonio, come sempre, sentiamo le parole di Gianni e sentiamo anche le parole del padre. Caro papà, oggi ho ricevuto con immensa gioia le lettere arrivate qui tra il 15 e il 17. Un po' di ritardo, ma le ho ricevute. Non so come ringraziarti dei soldi, mi sono sentito un po' confuso quando ci ho trovato 2000 franchi e specialmente vergognoso. Attualmente sono ancora all'ospedale perché la mia mano stenta un po' a guarire. Mi sono fatto un taglio non indifferente. Ah, c'è una grande nuova. Fra 5-6 giorni partirò per Sidi Bel Abbès, per la riforma. Aspetta un po' che ti ricollego le idee. Dunque, l'11 sono entrato all'ospedale, il 15 è venuto il sergente della nostra compagnia per pagarci la quindicina. Quando mi sono presentato per avere la mia paga mi disse: firma, ma tu non prendi i soldi perché sarai mandato a Sidi Bel Abbès per la riforma, martedì prossimo. Tu puoi immaginarti la mia gioia. Finalmente un segno affermativo del tuo grande lavoro. Sì, perché mio padre, questo ci raccontava sempre, aveva cercato tutte le maniere per trovare un sistema per arrivare fino in Africa per andare a rapirlo, portarlo a casa, e non aveva coraggio di dirglielo in qualche modo perché aveva paura che fossero lette le lettere, eccetera, eccetera, ma ne parlava spessissimo a casa. E tutti eravamo, io sentivo la preoccupazione dei fratelli, perché partire da in Africa con la nave non era ancora tanto semplice. Però probabilmente la gioia di Tony era: adesso sono via da Marsiglia, sono via da qua, probabilmente si riesce a combinare qualcosa. Marsiglia Bel Abbès era la base ufficiale della legione. Sì. Però credo che il lavoro a cui si riferiva era il primo che ha tentato di fare tuo padre. Cioè, il lavoro a cui si riferiva Tony, credo che fosse la prima parte del lavoro di suo padre, perché ne parla, lo chiama lavoro anche in altre lettere, quando lui ha cercato in tutti i modi legali di riavere indietro suo figlio, e quindi si è rivolto a ambasciate, a consolati, è andato a parlare fino al presidente della Democrazia Cristiana, perché lui era democristiano, e ha coinvolto tutti i coinvolgibili, e quello era la prima parte del lavoro, convinto che un ragazzo non ancora maggiorenne, aveva 18 anni, ma insomma, da noi diventavano maggiorenni 21, e convinto che si potesse riaverlo indietro. Dopo, quando ho capito che non c'era nessuna speranza, ha cominciato a fare quel lavoro che diceva lui. Che poi c'è anche una lettera del ministero italiano che ordinava alla Francia di rilasciare Tony. Quello che segue è un brano tratto dalle memorie del padre di Tony, Luigi, lette da Gianni Cocco. Sono in un'alternativa angosciosa. Partire o non partire? Tentare o non tentare? Qualcuno mi consiglia di andare laggiù. Qualche altro mi dice che è un tentativo troppo pericoloso. Anch'io sono di questo avviso e anche Cristina. Fallire vorrebbe dire rovinare completamente il ragazzo. Non tentare potrebbe voler dire, per il seguito, un'ossessione, un rimorso quasi per non aver fatto tutto quello che era possibile fare. Ma quali possibilità posso io avere di buona riuscita? Io che non conosco minimamente il paese, l'ambiente, poco la lingua e non so neppure dove si trova esattamente Saida. Held on hold like a noose, like a rope. Got a medicine. Io vi ricordo che questa storia potete ascoltarla o riascoltarla se volete il sabato alle 21.30 qui su Radio 24, oppure recuperare i podcast ovviamente sul nostro sito Linee d'Ombra, sulla pagina di Linee d'Ombra sul sito di Radio 24 o ovunque voi scarichiate i vostri podcast. Voi continuate a mandarci le vostre storie a lineedombra@radio24.it. grazie ad Anita Panizza, a Paolo Corleoni, a Luca Micheli e a Mauro Pescio. Ora diamo la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.